Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, 8 e 18 minuti, Cardinal Giannino, buongiorno. Buongiorno carissimo, meno male che non mi hai chiamato Petaloso Cardinale. Petaloso, meno male, mamma mia. Lo so, che ho paese. Fatto un'intemerata piazzata contro l'uso di Petaloso. Secondo non c'è. Me, io vi voglio Renzi solo dire, non dovrebbe dire. No, vi dico solo che San Petaloso non c'è. Non adesso c'è. Ce lo daranno tra poco, immagino. Perché, ma per il momento non c'è. Scoviamo, ci sarà un Petaloso nella chiesa. Ma no? Di chi è? Ma c'è da pedaparsi. Comunque, allora. Complimenti a questo ragazzino. Abbiamo trovato il Renzi del futuro. Lo ha messo in ginocchio. Ieri ha ripetuto il premier tutte le volte che ha aperto bocca. Cioè, praticamente 23 ore su 24 ogni volta. No. Petaloso, Petaloso. Vabbè, cioè, questo bambino è temibile. Seguiamolo nel tempo. Allora, futuro. L'unità pagina 4 sarà un dopo Expo Petaloso. Sì, pagina sì. 4, basta, fermatevi, vi prego. No, no, vi io questo prego, ragazzino basta. Sicuramente gli daremo un incarico. Anzi, pare che sia il 20° senatore del gruppo di Verdini. Ah, no, è già stato opzionato da Verdini, che ha capito che pensosamente... ha una visione futura. Ha una visione futura. Oh, poco la ride. Ma i santi, ti sei perso i santi. Verdini. Petaloso no, non ma c'è, Petaloso però... è santo ad onore. Però i santi di oggi sono santi Cesario da Nazianzo, sì. Che ho scoperto è diventato santo. Nazianzo è in Turchia, è santo lui, il fratello Gregorio da Nazianzo, che è un grande della patristica, il padre e la madre, cioè, praticamente che dovevano parlare di questi quattro di in Parlamento al posto del fare la legge sulle unioni civili, perché quattro santi, veramente incredibile. Poi San Calisto, Adelmo Abbato, Nestore, Gerlando, Avertano, dei nomi meravigliosi, posso dire. Ti dico già sì. Che domani qualcuno ha spacciato perché mi è Santo Alessandro, magari io lo festeggio il 26 agosto. Tu però, sei un altro nome plurimo come mia moglie, esatto, questo è il punto. Ti preannuncio. Noi perché... ricorderemo a tua moglie che anche domani però c'è Santo Alessandro. Esatto, scusa, ognuno esatto, deve ognuno, tentare di tirare un po' d'acqua al proprio modesto Santa Margherita mulino. Le abbiamo finite? No, sì. Siamo già quante, 5. Vedrai quante volte questa. Siamo al 25 febbraio, l'ho già sentito 5 volte. Esattamente, sì, sì. Buono, ci sono, c'è ancora quella del Portogallo, di Francia, quante sono in arrivo. Allora, la fedeltà. Parliamo della fedeltà. No, dobbiamo solo richiamare qualche tema perché poi abbiamo un ospite tra poco. Sì, sì, sì, no, ma la fedeltà la dobbiamo richiamare come tema. Cioè, parleremo delle unioni civili, dai, perché insomma, le chiamate su questo 800 24 00 24, oltre che sui soliti temi che volete voi, a piacere. Hanno messo nel maxiemendamento non c'è l'obbligo alla reciproca fedeltà per le coppie omosessuali, perché così i cattolici cioè, si capisce bene che non è una famiglia tradizionale. C'è l'obbligo dove fedeltà. Invece non ci si tradisce mai. Però per separarsi è più lungo del matrimonio tradizionale. Dai, è proprio cioè hanno dimostrato veramente la loro pochezza, posso dire la loro pochezza. Pensa che in prima pagina sulla stampa oggi c'è un richiamo in prima pagina in un posto dove mi è venuto un colpo perché dico cacchio, non avevo pensato a questo, perché sulla stampa dice il rifugio dove vivono gli asini maltrattati, ho pensato che fosse la Camera dei Deputati. Eccolo invece lì. no, invece no. Però no, la legge delle unioni civili mi fa pensare che è un po' così, che è un po' così. Però io dico, ma accidenti, era da quanti 30 anni che aspettavamo una legge di questo tipo? 30 anni, perché i Dico, i Pax, esatto. I Didore, ti ricordi? C'è anche Brunette, i Didore aveva fatto Brunette e Rotondi. 30 anni che l'aspettavamo, e adesso che arriva una legge, piaccia o non piaccia, finisce che si discute delle polemiche. Sì, per solo legge. Delle polemiche, sono tutti scontenti in realtà. Questo, tranne, ripetiamo, i due grandi vincitori che sono A. Alfano. B. Verdini. Questo è. Verdini che è stato, come dire, si può dire orecchiato, auscultato. Da un giornalista della Stampa. Sì. Ieri mentre prendeva il caffè con tre persone, Verdini diceva: ma state tranquilli, tra massimo un mese entra nel mio partito il sottosegretario Tonino Gentile. Quindi di fatto io entro nel governo. La siamo certificazione... nel governo, Questo, beh, è anche giusto, ormai è diventato sempre più importante politicamente. Quindi tu dici, dopodiché io non lo dico con un atteggiamento di superiorità antropologica e di critica moralistica, cioè se il governo che dica ogni giorno nella sua enfatica roboante prosopopea il premier, parla tanto di rinnovare l'Italia, metodi nuovi di rottamazione, ma in realtà la sua è politica politicista, come è stata la prova e conferma in questa vicenda dei nuovi civili, è giusto che i politici politicisti diventino rilevanti e gli venga riconosciuto un ginocchio il loro ruolo, cioè senza i 19 Alfano voti, esatto. Senza 19 voti questa legge non passerebbe. Quindi neanche è, cioè, è la madre realtà che racconta a tutti il vero significato politico di questo governo, come si regge e come evolve nel tempo con la politica politicista, accordi, inciucci, sottobanco, contraddizioni, negazioni dei principi, fare una cosa e dirne un'altra, viceversa. Però ieri Claudio Velardi, che ci ascoltava, ci ha scritto questo su Twitter: attenzione, voi non tenete conto che Matteo Renzi fa i conti con un Parlamento che non è il suo Parlamento, suo tra virgolette, cioè, come dire, d'altronde Renzi non è passato attraverso le elezioni, è un Parlamento, come ha detto Renzi, nel quale il PD non ha vinto, e quindi che faccio? Cioè, ogni tanto bisogna fare così. Io ho risposto in serata che io sono d'accordo con Fabrizio Contarino, che era con noi, che era deluso, perché non ti puoi ricordare che non hai la maggioranza in Parlamento, non hai vinto le elezioni, solo quando ti va storto. Ma non è che se lo ricorda, lo sa benissimo. No, lo sa benissimo. No, se l'ha ricordato solo dopo che un pezzo del suo partito è esploso, e dopo i 5 Stelle hanno detto: no, un momento, allora ripensiamoci, visto che anche il PD esplode. Ecco. No, ma infatti, cioè, che il problema di questa legge sia all'interno del partito democratico, esatto, e non il Movimento 5 Stelle che non vota il canguro, non Alfano che fa il suo lavoro da Alfano e da cattolico, e quindi rivendica le proprie posizioni, non di Verdini, di qualunque tipo di lavoro possa trattarsi, non lo so, cioè, non di Verdini, che punta e aspira a diventare sempre più rilevante, certo. Il problema è all'interno del PD, cioè i cattodem, ecco, diciamo, quindi che... allora un segretario del partito più consapevole sarebbe comportato un po' diversamente. Sì, ma diversamente come? Cioè, un catto una non legge può, del genere, se non hai un partito passare, unito e non hai la maggioranza, non puoi fare lo spaccamontagne che dice questo è il testo ed è già fatto, perché gli altri si incazzano e dicono: no, primo, scusa, con chi ne hai parlato, secondo, con chi sei d'accordo, ma una legge terzo, del sbatti genere, il muso. Cioè, i cosiddetti cattodem non l'avrebbero mai passata, cioè neanche discutendola, perché su alcuni principi non e allora forse dovevi trattare al tuo partito prima dentro per capire di convincerli, invece che scoprire quando li hai esulcerati che i loro emendamenti diventano ancora più duri. Comunque, senti, qui, Renzi ieri l'ha detto anche lui, l'ha detto quella del bambino, l'ha detto anche lui. E tu? Che l'Accademia della Crusca, dopo una lunga discussione tra i propri grandi esperti, ha ritenuto essere una parola che deve entrare nel vocabolario italiano. E la parola petaloso è entrata dentro il... Io l'ho detto, perché? Io lo dico, appaio un po' radical chic, ma deve distinguersi. Non è che siccome il popolo parla su Twitter e sui social di petaloso, devi parlare di petaloso perché sei il presidente del Consiglio. No, ma il problema è che lui impone che si parli. Cioè, no, so, guarda, che è un meccanismo un po' più sottile di questo. Sì, dici. Io sono abbastanza convinto. Comunque, caro Oscar, delle unioni civili parleremo tra poco con tutte le telefonate e le considerazioni ma del ora... caso. Ci ha colpito l'articolo di 2 giorni fa che abbiamo letto sul Corriere della Sera di Enrico Marro, e che riguarda le cosiddette 30.000 pensioni d'oro. Per la verità sono 29.725. Sì. Censite da Alberto Brambilla e il suo gruppo di studiosi. Alberto Brambilla, tra l'altro, è stato sottosegretario al welfare, esperto di pensioni. E che ogni anno dice questo rapporto sulla sostenibilità delle pensioni. Esatto. Alberto Brambilla con noi, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi Brambilla. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, sono 30.000, diciamo così, in maniera grezza, le pensioni. Che pensioni sono? Quali pensioni? E perché sfuggono a qualsiasi tipo di riforma queste pensioni? Ci faccia capire. Beh, intanto diciamo che tutto il sistema pensionistico italiano, vitalizi compresi, dovrebbe fornire le proprie informazioni a quello che è chiamato il casellario generale, rinominato Anagrafe Generale delle Pensioni dei Pensionati. Questa anagrafe è stata, come dire, rivista con ulteriore legge del 2001, per cui tutti quelli che non fanno capo agli enti previdenziali, ormai è l'INPS o le casse dei liberi professionisti, sono obbligati annualmente a comunicare i dati delle loro prestazioni cosiddette periodiche, sì, al casellario. E chi sono queste? Chi sono queste categorie di persone? Sono quelle che siamo riusciti a censire, che sono le regioni a statuto speciale, segnatamente la regione Sicilia, Camera dei Deputati, Senato, le regioni per tutti i vitalizi, sì, la Presidenza della Repubblica per il personale e la Corte Costituzionale per i giudici e per il personale in servizio. E voi chiarite che non lo fanno, cioè non comunicano i dati. Allora, non comunicano i dati all'anagrafe. Poi ci sono situazioni come la Presidenza della Repubblica che espone un bilancio molto chiaro dal quale si evincono il numero, le prestazioni, i contributi e tutto quanto, altre situazioni in cui si capisce poco e quindi come dire, bisogna fare delle stime, tant'è che vedete sul rapporto molti asterischi perché si stima, non ci sono i dati ufficiali. Sì, esatto. Devo dire che poi queste pensioni piano piano sono rientrate nel circuito delle nuove leggi, per esempio il cosiddetto contributo di solidarietà, sì, oggi grava praticamente anche su queste, tutte le pensioni, meno che su quelle della Regione Sicilia e delle regioni a statuto speciale, perché la legge del 2000 non è stata recepita, evidentemente. Stiamo parlando perché debbano esistere ancora le regioni a statuto speciale. No, ma tra l'altro, perché stiamo parlando, Oscar, di 1,5 miliardi, queste 30.000 pensioni, cosiddette pensioni d'oro, appunto, ripetiamo, di ex deputati, ex giudici della Corte Costituzionale, ex dipendenti della Regione Siciliana, eccetera, valgono 1,5 miliardi. E sfuggono alle riforme, ci dice questo rapporto. E hanno medie, quelle per esempio a Corte Costituzionale e giudici, 200.000 euro, sì, l'anno, è calcolato. Quelle dei vitalizi e senatori, 91.000 e rotti. Pensate, 16.600 euro ex giudici della Corte Costituzionale al mese, 16.600 euro. Non è male. Allora, io naturalmente, oltre a ringraziare, ma questo lo faccio da anni, chiamando in trasmissione, e non sono in trasmissione, Alberto Brambilla e i suoi per il lavoro che fanno, io ho un messaggio chiaramente fuori dai denti su questa roba qua. Non mi vengano a dire i signori parlamentari, senatori, i deputati regionali, come si chiamano loro prosopopaicamente della Sicilia, che questi sono i diritti acquisiti, i loro contributi, che non ne possiamo ridiscutere, perché non è così. Questa è l'espressione e lo schiaffo in faccia agli italiani. Agli italiani, no, che le pensioni così se le vedono erodere riforma dopo riforma. Ma non c'è dubbio, questa è la manifestazione concreta del fatto. Tu lo sai come funzionano le tre divisioni del mondo sui ladri? No, non hai mai sentito parlare? Sapevo delle sette divisioni. No, nell'Islam talora sono amputati, cioè una legge un po' dura. No? Nell'Occidente in generale talora sono imputati. In Italia non raramente sono deputati. Questo è il punto. Brambilla, dica qualcosa. Dica qualcosa. Devo dire che i deputati e i senatori con la legislatura del 2012, quindi dalla sedicesima legislatura è per vero, la precisione, si sono fatti la riforma, quindi sono andati a contributivo. Sì. Pagano tanto perché sono circa 1.000 euro al mese di contributi. Hanno un'età di pensionamento di 65 anni, noi per la verità ce l'abbiamo già di 66 e 7 mesi circa, e però lo strano è che si sono detti, vabbè, dopo la prima legislatura di 5 anni, ogni anno in più che facciamo ci riduce l'età di pensionamento, esatto, dai 65 ai 60. Capito. Ecco, io chiederei un'equiparazione per, sì, tutti quelli che peraltro oggi discutiamo. Sì, sì, ma il minimo, non vogliamo niente di punitivo, ma che siano trattati non come nella famosa fattoria degli animali di Orwell, come animali diversi dagli altri, ecco, sì, o più uguali degli altri. Voglio dire, ormai il metodo di calcolo contributivo, che io abbia fatto una gestione, 5 gestioni, 10 gestioni, è esattamente quello per tutti, per cui non ha più senso neanche le ricongiunzioni e tutto, è un nastro contributivo unico. Quindi avrebbero potuto, già che facevano il contributivo, diciamo, tenersi le regole nazionali, ma penso arriveranno anche a però quello. Brambilla, cosa possiamo fare per il fatto che violano palesemente la legge non comunicando i dati? Perché al Parlamento ci dicono c'è l'autodichia, cioè questa bella parola anche di origine greca per dire che c'è l'autonomia legislativa, e però viene utilizzata pro domo loro. Quindi cosa si può fare? Ma guardi, qui siamo in un caso tipico italiano. Nel fare il rapporto abbiamo parlato con i nostri colleghi tedeschi, con i nostri colleghi belgi, eccetera, eccetera, di tutto quanto. Dopodiché è chiaro che ogni paese ha i contributi per finanziare le pensioni e ha le tasse per finanziare l'assistenza. E gli abbiamo detto, ma come funziona un po' così? Poi, detto in sintesi, loro dicono, se uno ha 30 anni e l'agenzia nostra delle entrate guarda e non ha mai fatto una dichiarazione di redditi, gli manda una letterina e gli dice se si è per caso scordato dell'agenzia delle entrate. Dopodiché, se questo non risponde, dice sono veramente dolori. Noi in Italia abbiamo fatto allora lo spaccato e abbiamo detto proviamo a vedere quanti non versano. Quasi la metà della popolazione non versa nulla e comunque vive sotto i 600 euro al mese. A questo punto, uno, non è la fotografia del nostro paese. Esatto. Due, l'agenzia delle entrate dovrebbe chiamare queste persone e dire ma di che cosa vivete? Ecco, di aria? E quindi, la stessa cosa dovrebbe fare il legislatore, perché non lo può fare il casellario, perché lui riceve le prestazioni, può soltanto dire questi non me le mandano. E quindi il legislatore può praticamente dire... io non mando queste comunicazioni e pertanto mi punisco, ma però deve farlo Camera e Senato e se non comunicano è difficile. È difficile obbligarle, visto che poi di fronte a questa autodichia si ferma un po' tutto. Ma il problema è che a fronte del fatto che un paese non racconta se stesso davvero su tasse, no? E versamenti pensionistici, perché vuole andare a elemosina di Stato, parliamoci chiaro, vuole trasferimenti pubblici, dall'altro i parlamentari dicono guardano questa pessima situazione e invece di interpretarla e reagire dicono e sapete che c'è e quindi io mi piglio un po' di soldi, un bel po' di soldi in più. È un po' così. Hai perfettamente ragione Oscar, perché tra le altre cose noi abbiamo su 16 milioni e rotti di pensionati una metà che sono o totalmente o parzialmente assistiti, tant'è che il bilancio delle pensioni puro, come appare dal rapporto, è più o meno in equilibrio, tanti contributi entrano, tante prestazioni escono. Il problema è che l'assistenza sta sfondando quota 110 miliardi, perché la metà, ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non sono riusciti a versare in 66 anni di vita circa 15-16 anni di contributi, vuol dire che non hanno nemmeno probabilmente pagato le tasse, vuol dire che una parte del paese non si rende conto che non possiamo mantenere un livello di welfare così elevato se poi non paga nessuno. Però quando si tocca il tema pressione lo sappiamo, la scossa. Però Alberto Brambilla, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, insomma, per averci spiegato. E comunque sarà in primo posto in tribuna quando faremo una bella cerimonia di espiazione pubblica di questi ladri. eccolo lì. Grazie Brambilla, buona giornata ovviamente. Prima di andare in pubblicità, poi daremo sfogo a tutte le vostre telefonate, alle nostre considerazioni su unioni civili, su quello che volete. Guarda i nostri amici di WhatsApp al 349-238-6666. Senti subito. Un po', Oscar. È veramente sorprendente. Verdini, quando era con Berlusconi, era un delinquente, un massone, la peggio cosa d'Italia, passavano da lui tutti gli intralazzi del mondo. Adesso che è passato con Renzi, è santo e pure martire. Vabbè, è anche forse petaloso forse. È petaloso pure petaloso. Lui. Ho davanti a me un paesaggio pieno di pali, della luce, pali del telefono, pali della ferrovia. Posso dire che è un paesaggio paloso. Paloso, con una L. Paloso, sì. Va bene, cari ascoltatori, dai, due minuti di pubblicità e siamo qui, Michele da Bari, Giancarlo da Torino, sono già in attesa, insomma, ascoltatori e tante considerazioni. Tra poco sta... Eccoci Oscar! Eccoci qua, eccoci. Le 8 e 40 minuti, guarda quanti ascoltatori ci sono lì che ci vogliono bene o ci vogliono male, ma vogliono parlare Flash con noi. Flash, una cosa che mi ha fatto stare male ieri, che oggi nessun giornale ha ripreso, è un imprenditore, 68 anni, vicenda che viene a Cassino di Sicilia, si è suicidato. Perché si è suicidato? Perché nel 1993, 23 anni fa, un funzionario pubblico del comune gli chiede una tangente e lui dice non pago. Anzi, vado in procura, io l'ho visto, vai in procura. Dopo 23 anni, questo funzionario del comune di Castiglione di Sicilia, 4 gradi di processo, Cassazione, torna dietro, assolto, e lui, l'imprenditore, siccome si è rovinato, ha chiuso, eccetera, eccetera, alla notizia dell'assoluzione si è suicidato. Questi sono gli eroi civili che dimentichiamo esistono nel nostro paese. Chiusa parentesi. Sì. Effettivamente oggi sui giornali questa notizia non Salvatore l'ho, Marano, non sì. L'ho proprio, ieri solo il Fatto Quotidiano ne parlava nell'edizione online, però ci tenevo ai familiari eccetera. Guardate, c'è chi queste cose le nota e dice ecco, quando l'Italia non avrà più di queste vicende sarà meglio. Scusate, ma No, ma assolutamente. Hai fatto una cosa doverosa. Allora, diamo la parola ai nostri ascoltatori. Emanuele ci chiama da Pavia. Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, una domanda. Visto che parlavamo di pensioni, di onorevoli e di quant'altro. Nessun problema. Ognuno si è fatto la sua pensione in questo paese. La domanda è, ma perché, pagando naturalmente, non gratuitamente, gente come me che ha alcuni anni che ha fatto in nero perché non era possibile avere i contributi, perché ti assumevano soltanto in questa maniera qui, perché non è possibile integrare i contributi in questo Stato? Cioè, andando in pensione prima e pagando? Non andando in pensione prima, io mi ritrovo che ha lavorato degli anni in nero? Assolutamente sì. Vorrebbe riscattare quegli anni lì che ha lavorato in nero. Assolutamente sì, e nessuno te li fa riscattare, però in compenso, siccome gli anni in nero li hai fatti perché qualche imprenditore aveva piacere di farti il nero. Sì, lei dice è stato un po' vittima di questa cosa e ora deve anche scontare il fatto che non li vengono riconosciuti questi assolutamente anni. Assolutamente sì, però perché come facciamo a capire quanto lei ha pagato, quanto lei ha preso, che contributi deve dare, quanto riscatta? Basta equipararli all'ultima contribuzione. Emanuele, perché la risposta tecnica alla sua domanda è che non si può fare, perché non si può fare un'equiparazione di campo come se fosse un riscatto di una laurea, di una roba che è un reato, capisci? È un reato. Beh, certo che è un reato il lavoro nero. È stata violata la legge e quindi... Sì, ma la legge l'ha violata gli imprenditori. No, ma capisci, non si sana con un'equiparazione. Esatto. Cioè lo Stato non può riconoscere una sanatoria punto. A un reato. E purtroppo quindi la sua risposta è una... La sua domanda è una risposta, tra virgolette, non solo pregnante, ma anche logica. No, poi ci sarebbero, Oscar, casi di truffe, gente che finge di avere lavorato in nero e quindi riscatta la pensione. Non è il suo caso, ovviamente, Emanuele. Ci sono anche quelli che non lavorano e incassano la pensione per contributi figurativi, il Presidente del Consiglio. Michele da Bari, niente. No, io non ricordo. L'esempio viene dall'alto, però, Alessandro. Attenzione, la vicenda del... norma attraverso la quale con i contributi figurativi con l'azienda del papà dove lui non ha lavorato e alla fine figura poi la pensione è un classico esempio che viene dall'alto secondo me, lo dico senza tema, non è che temo di essere portato in tribunale, sono le cose che dall'alto non si dicono perché la gente non fa figo poi ripeterle, però gli esempi vengono dall'alto, ci sono in materia stati provinciale. Anche articoli. Ecco, Michele ci chiama da Bari, buongiorno Michele. Buongiorno, salve. Eccoci. Una rapida premessa. Io sono, diciamo, come idee più di centrodestra che di centrosinistra. Volevo fare un intervento sulla legge sulle unioni civili. Sì. Diciamo, io tendenzialmente sono per l'idea comunque del fare. Allora, facevo un mio pensiero stamattina su... Non voglio fare dei paragoni che possono sembrare magari... li faccio, un po' esagerati. Però per esempio anche la legge per l'abolizione della legge sulla schiavitù negli Stati Uniti fu una legge molto controversa che poi alla fine fu portata a casa con voti recuperati quasi uomo anche presso insomma l'altra parte. E quindi io penso che comunque sia una legge importante, sicuramente migliorabile, però che fosse importante. Quindi lei dice, bene, almeno dopo 30 anni di dibattito, anche se non si porta a casa al 100%, Michele, posso dire una cosa? Portiamo a casa un qualcosa. Convinto. Lei ha paragonato Renzi ad Abramo Lincoln. Faccio un paragone ovviamente molto azzardato. Diciamo. Ci pensi un pochino. Comunque Michele, diciamo... Traiamo la sostanza dell'intervento è va bene, si porta a casa qualcosa e poi passo dopo passo. Grazie Michele, andiamo a Torino, ci sono due ascoltatori da Torino, prima Giancarlo che era lì da prima e poi Franco. Giancarlo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccoci. Senta, volevo chiedere una cosa, visto che l'Ungheria, l'Austria e altri paesi dell'est europeo si preparano a chiudere le frontiere e a limitare il flusso dei migranti. Volevo chiedere, ma il nostro paese, l'Italia, e il governo, eccetera, ma siamo pronti poi ad affrontare l'immigrazione che entrerà da Trieste, a parte quella che arriva appunto da Lampedusa? Perché si parla di un sacco di cose, ma marzo-aprile sono vicini e arriverà un sacco di gente. C'è, già ne è arrivata, però giustamente lei dice adesso con la bella stagione arriveranno. Entreranno dal Brennero e da Trieste, e ne arriveranno tantissimi. Ne abbiamo parlato due giorni fa, anche con un sindaco. Noi il nostro mestiere monitoreremo la prontezza dell'autorità italiana, però prima che gli altri chiudano le frontiere potremmo mandargli tutti i parlamentari, se li tengono loro non ce li mandano più indietro. Questo sarebbe, ma non lo faranno mai, ce li manderebbero subito negli aerei, ce li manderebbero immediatamente. Non lo faremo. Comunque Giancarlo ha posto un problema serio, cioè che l'Italia non sia in grado di gestire, ma non perché sia l'Italia, siamo un paese effettivamente di frontiera in questo, e ragioniamo sempre sull'ottica dell'emergenza, sull'immigrazione, abbastanza sotto gli occhi. Il rischio è che lo scopriremo dopo, anche se ci sono tutti i problemi per saperlo prima, come dice il nostro ascoltatore. Sempre a Torino c'è Franco che ci chiama. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Volevo solo dire una cosa rapidissima, che il risultato a Unione Civili è semplicemente la rappresentazione della media della opinione degli italiani, perché questa è l'Italia e non si sarebbe potuto fare di meglio, perché siamo esattamente quelli che vengono fuori con questi risultati, e questo purtroppo è il problema che abbiamo. Quindi è inutile illudersi, visto che il Parlamento ha votato gli italiani, che si sarebbe potuto ottenere qualcosa di meglio. Non so, io penso che se avessi, guarda, io dico fuori dai denti e parlo di una cosa che forse credo un po' di sapere, se avessi parlato con mia madre, cattolica assolutamente rigorosa e sincera, devo dire, viva la fede di mia madre, ma se gli avessi detto: mamma, ma secondo te ha senso fare l'unione civile omosessuale in cui la distinzione rispetto al matrimonio è che non ci deve essere la fedeltà, ma ci si separa con un tempo più lungo rispetto al matrimonio? Penso che mia madre avrebbe sorriso dicendo: no, non mi sembrerebbe logico. Ecco, per dire. No, devo dire che questa cosa poi della fedeltà ha innescato tutto un dibattito sul: ah, ma sì, d'altronde si sa, gli omosessuali sono più promiscui. No, non è vero, facciamo meno sesso, i luoghi comuni. Appese sul nulla. Sì, questa cosa della fedeltà effettivamente, ripeto, nasce perché al nuovo centrodestra volevano con questo distinguere dalla famiglia. Infatti, secondo me, questa è un'espressione a cui arriva il delirio quando questa espressione. Il problema invece che nel merito diventano un terreno di gioco delle distinzioni partitiche. Ti inventi tutte le distinzioni per dire ho vinto io, ma il merito diventa miserando. Ci chiama Francesco da Roma. Tra l'altro, una curiosità, caro Francesco, ma avete sentito che Salvini dice che ho un nuovo nome in mente? Proprio Bertolaso non gli piace, quindi ci sarà, non so, il settimo candidato ascrivibile al centrodestra, più o meno. Francesco, buongiorno, lei ne sa qualcosa? Assolutamente no. No, niente. No, speravamo fosse lei. Speravo fosse lei o che lei ci potesse fare un po' di luce su questa cosa. Se qualcuno è disposto a candidarmi, perché no? Perché no? Vabbè, dica Francesco. Allora, ascolti, la questione, adesso a parte questi aspetti, la questione è questa. Io faccio un ragionamento su tutte le volte che si sono fatte le riforme delle pensioni e dico, nel momento in cui io inizio a lavorare con un sistema pensionistico di un certo tipo, per intenderci ho iniziato con il sistema di tipo retributivo, ok? E a un certo punto in corsa mi sono trovato la riforma Dini, sì, la riforma Maroni, la riforma successiva che hanno fatto a quella Maroni. Va bene, la domanda? Eccetera, eccetera. Uh-huh. Domanda, ogni volta che fanno le riforme sostanzialmente io mi trovo, cioè ognuno di noi si trova a dover, tra virgolette, sottostare ad un nuovo regime. Domanda, allora, certo, quindi... domanda, per quale ragione a un certo punto quando decidi di passare da un sistema... a un altro non dai l'opzione a questo punto e dici benissimo, da questo momento in poi se io decido di cambiare e sei libero di farlo, ma a questo punto ti do la possibilità, ti ridò tutti i soldi, Francesco, vedete, ma questa è la, Francesco, scusi se troppo, avevo già capito dove volevo andare a parlare, questa è la convinzione che avete quasi tutti e io ogni volta devo ricordare a tutti: non avete il vostro tesoretto da parte che si avvalora nel tempo versati contributi anno in anno. Non ce l'avete. Il nostro è un sistema a ripartizione. Tutti i contributi, Francesco, che lei ha versato nel progredire della sua vita contributiva e lavorativa, anno per anno, mese per mese, sono stati tutti utilizzati per pagare le pensioni in essere. Certo. Quindi lei dice: perché non me lo dà? Perché non c'è, non so se è chiaro. Non c'è, sì, non è suo. Anzi, anche per se, decenni, che se uno pensa, siccome pensa sia è suo, un giroconto, lo Stato non li ha minimamente versati i contributi dei suoi dipendenti. Tanto per dirvi, proprio non li versava perché dice: tanto sono io che li do, che pago, capisce, le pensioni. Che però, Oscar, è un modo, non dico truffaldino, ma, ma infatti, insomma, io da sempre fa credere al cittadino, certo, che uno mette, bravo, da parte qualcosa che così sarà per la propria pensione, e invece per la pensione del così suo nonno, di suo zio. Perché per una cosa simile bisognerebbe avere un sistema non a partizione, cioè se hai una polizza privata, mm-hmm, vera, un fondo privato, ti viene tenuto da parte, lì puoi decidere se vuoi una roba che ha prestazioni definite o a contribuzioni definite, ma lì conta solo quello che hai versato e come viene valorato. Lo Stato ve li fotte i soldi, perdonate, tecnicamente li utilizza per pagare altri. Oh, questa roba però, niente, la gente giustamente confligge col senso comune e non se ne rende secondo conto. Secondo me tutti lo sanno, anche Francesco sa che quello che mette via non è che gli viene tenuto in una cassaforte per quando andrà in pensione. Sa benissimo che l'INPS lo utilizza per pagare le pensioni dello zio, del nonno, quella in essere. Quindi tecnicamente però lo Francesco sa, però ci potrebbe l'idea dire, è li ho messi potrebbe via, ridarmeli anche, una volta che lo so, potrebbe ridarmeli se li chiedo. No, perché non li avrebbe, sarebbe tutto deficit aggiuntivo, non ce l'ha quei soldi lì. Va bene, Mario sempre da Roma ci chiama. Mario, buongiorno. Buongiorno, io eccoci, vorrei farvi una preghiera più che una domanda. Bene. Giustamente si parla dei politici, le pensioni, ok, va bene, è uno schifo, una vergogna, ma stiamo parlando di cifre ridicole se paragonate alla vera vergogna di questo paese, che sono i dirigenti pubblici, cui noi giovani paghiamo i contributi, gente che magari è andata in pensione a 50 anni e gente che oggi ci dà servizi vergognosi e che molto spesso, per non dire sempre, per avere questi servizi bisogna pagare un extra. Mm. Allora raccontate le vergogne dei politici, ma raccontate anche le vergogne quotidiane che si leggono solo sulle cronache locali dei dirigenti pubblici che ogni giorno vengono quando succede lo facciamo 10 a 1 rispetto ai però politici. Mario, quando succede lo facciamo. È vero che la classe politica, Oscar, è un po' più presa di mira, no, la dire, casta, Mario, eccetera. Becchi uno che rompe i cabasisi 5, 6, 10 volte all'anno, ricordando a tutti che l'INPS, oltre ai 90 miliardi di euro che si becca ogni anno dalla fiscalità generale, per quello che ci ricordava prima Brambilla, adesso se ne deve beccare altre decine di miliardi, perché il patrimonio è eroso proprio per via dell'incorporazione dell'INPDAP, cioè dell'Istituto Previdenziale dei Dirigenti Pubblici di cui parla Mario. Cioè io sono tra quelli più odiato tra i dirigenti pubblici, perché lo ricorda incessantemente. E Mario, hai ragione. Allora, Oscar, qua manca 30 secondi. Su WhatsApp la gente è attiva, senti qui. Visto che Renzi mi fa venire voglia di mandarlo a quel paese, oh, posso mica dire che Renzi è un po' fanculoso? No, mamma mia. Vabbè, Verdi, Arbis Iuria Verbis. Verdini. Milan, Giannino, ma venite giù dalla pianta, ma non avete ancora capito che Verdini è d'accordo con Berlusconi, questa, che alla fine dopo si mettono ancora assieme. Questa è una cosa che in realtà abbiamo detto anche qui, è un sospetto. Vabbè, chiudiamo con il contest, dai, il solito contest, il basta. Basta, basta, oh, ma basta là. Dal Piemonte con furore. Basta, con sta stepchild adoption. Sono Enrico Ruggeri e anch'io dico Oscar Giannino, basta. Vabbè. No, precisiamo che sarà un imitatore, sì, perché che i nostri imitatore, ascoltatori non ci caschino, per così dire. Caro Oscar, ci troviamo domani, ci sarà una fiducia in più e qualche elemento di fiducia in meno. Oggi hai visto che ho scoperto il 20% dei compiti degli avvocati corretti, copiati, ma non sapevo che non vengono estromessi dai concorsi e né dalla professione. Quindi hai capito in che paese siamo? La fede pubblica in che maniera? Vabbè. Questo succede. Dai, ci troviamo domani, grazie a tutti, a domani.